RPG, tecnologie militarie usate durante sommosse per sparpagliare la popolazione. Vanno a interagire con le molecole del corpo e delle ossa, fanno bollire il corpo, rende l'aria respirabile, ma porco diavolo, telefono e wifi sempre più pericoloso, nessuno ne parli, anzi parla su altra roba. Meccanismo di controllo per cosa? Controllo il cancro, più antenne più elettrosmog, oh, 225 miliardi di profitto in più entro il 2025, ecco il vero valore, tumore ad ore nelle loro tasche, microonde ad oro. Installeranno nei pali di luce semafori e torre, migliaia e migliaia intorno al mondo, mattatoio. Io inondando il mondo di un male, inoculando onde e microonde di anno in anno, sempre più letale. Gli uccelli in volo continuano a cadere, e solo il nuovo 5G lo sa bene spiegare. Chi ha accettato passivamente, il cittadino o il voto si fa latitante, beneficio o rischio per la super tecnologia ridondante. Accetteremo tutto come sempre, tanto tutto è per finta, deciso, tutto è scritto in anticipo intanto. Controllo e cancro, più antenne più elettrosmog, 225 miliardi di profitto in più entro 2025, ecco il vero valore, tumore ad ore nelle loro tasche, microonde ad oro. Installeranno nei pali di luce semafori e rotonde e torri, migliaia e migliaia intorno al mondo, mattatoio. Io no, inondando il mondo di un male, inoculando onde microonde di anno in anno sempre più letale. Gli uccelli in volo continueranno a cadere. Gli uccelli in volo continueranno a cadere, e chi ha accettato passivamente, il cittadino o il voto si fa latitante, beneficio o rischio per la super tecnologia ridondante. Accetteremo tutto come sempre, tanto tutto è per finta, deciso, tutto scritto in anticipo intanto. Gli uccelli in volo continueranno a cadere. Gli uccelli in volo continueranno a cadere. 225 miliardi di profitto in più entro il 2025, ecco il vero valore, tumore ad ore nelle loro tasche, microonde ad oro. Gli uccelli in volo continueranno a cadere. Gli uccelli in volo continueranno a cadere.